Una buonasera, anzi una buonanotte per molti, da appunto Max Macchia, Radio Città Fujiko, appunto perché ritorniamo insieme dopo il primo mercoledì che appunto ha aperto, questo appunto, come dire, sarà punteggiato durante tutta la trasmissione, magari no, sto scherzando, e che questa sera Max Macchia, dentro 451 frammenti sonori, dentro la seconda parte di dello speciale dedicato al grande Alan Vega, avrà insomma una forma un po' più corta, smart, forse per essere insomma un po' anche renziani, come piace insomma negli ultimi periodi è tutto un po' smart ultimamente, quindi condurrò solo per un'ora, e beh, comunque un'ora che renderò intensa, perlomeno ci proverò, quindi con meno parole magari e più musica. O forse qualcuno potrebbe anche dire, beh no, forse parla di più perché forse l'emotività sta proprio tutto lì nel verbo, beh lì poi dipende dai fatti, ecco, magari fatecelo anche sapere tramite il blog quello che pensate, appunto, nel caso di una forma smart, che comunque ogni tanto, vi preannuncio, quest'anno andrà, e forma breve insomma di 451 frammenti sonori. E Alan Vega, seconda parte, eravamo arrivati all'incirca a metà degli anni 90, situazione eccezionale per Vega, che dopo aver passato gli anni 80 anche in maniera piuttosto, potremmo dire, anche felice, perché comunque rispetto anche a Martin Rev, suo sodale dentro Suicide, Martin Rev ha avuto un aspetto sicuramente più defilato, anche se è importante, il primo disco è un grande gioiello, speriamo di fare uno speciale su Martin Rev e Suicide il più tardi in tempo possibile, ovviamente siamo qua anche per appunto la dipartita quest'estate di Alan Vega, e Alan Vega invece, rispetto a anche un profilo insomma è meno glam, se vogliamo considerarlo tale, c'è anche dentro Alan Vega, ma anche dentro Suicide, un glam, se non che questo aspetto glam e depauperato di quel magari luccichio appunto degli anni 70 o addirittura di quegli anni 80 che resero il glam faccenda insomma piuttosto così, piuttosto pacchiana, forse neanche senza più quell'ironia che invece l'aveva connotato negli anni 70, che aveva fatto di personaggi come il primo Bowie e Mark Bolan, due soggetti che sicuramente riuscivano a scherzare anche col fuoco, appunto toccando il rock and roll, e con quella strana poi affabulazione tutta loro, in questo senso accomunati i due, splendida foto se la trovate, con i due che si ritrovano su un palco, cosa che tra l'altro non avevo mai visto, e mi ha fatto molto piacere. Beh, come al solito insomma la faccenda degli anni 70 legata al glam li vedeva insomma protagonisti, perlomeno per quanto riguarda il lato merceologico della faccenda, quindi di vendite, che insomma ha sempre tirato quando si crea appunto l'antagonista, no? Beatles, Rolling Stones, o Beatles, Beach Boys, Bowie, Bolan, Prince, Michael Jackson, insomma varie fesserie che appunto servono in termini merceologici. Beh, questo probabilmente appunto è stato depauperato completamente da quell'aspetto sia glam appunto ironico, così scherzoso, anche se è uno scherzo anche piuttosto pesante, sia quello di Bowie che di Bolan, e sia ovviamente tolto tutto quella faccenda iper iperpop che c'era negli anni Ottanta, legata appunto al glam metal, fondamentalmente veramente insomma piuttosto così seriosa nel volersi farsi ancora rock and roll, quando le macchine, quella dei Suicide, ma non solo, quella di buona parte della wave, avevano di fatto anche il techno pop poi demolito completamente. Forse l'unico modo appunto per esistere del rock and roll e anche di quell'aspetto glam, quindi del rock and roll, è stato quello appunto di Alan Vega, e abbiamo sentito la scorsa volta nella prima parte di personaggi come di Out ad esempio, personaggi che suonavano il rock con le macchine, avendo comunque un'idea anche futuristica appunto di questo, come Sisterhood con il progetto The Gift, ma anche negli attraversamenti solisti assolutamente folli, incredibili, soprattutto dei primi due dischi di Alan Vega, l'omonimo dell'80 e poi l'anno successivo Collision Drive, con quella Viet Viet incredibile, una sorta di Jim Morrison buttato dentro una sorta di grande cloaca micidiale di portate incredibili, con veramente tutto quello che può essere detrito e anche munnezza, proprio nel vero senso della parola, ecco, perdonatemi, insomma, così appunto il francesismo napoletano, e che viene, come dire, portato a un eccesso talmente tale da farlo trasfigurare anche forse proprio in una forma di nuova narrazione. L'altra volta dicevamo questo, e poi anni 80 di Alan Vega che attraversa appunto le elettroniche che riprendono appunto come forma insomma bislacca, ma comunque c'è di fatto quella primigenia forza del rock and roll, e lo trasforma in cyberpunk. Se appunto il punk per tanti aspetti è stato un movimento di rottura, poi per altri però a ben vedere, con insomma, scritture che nel corso degli anni ancora hanno reinterpretato quel periodo, è stato anche proprio una sorta di revival per alcuni aspetti, legato senz'altro al punk rock, per altri e no, perché appunto c'era quel tentativo di sperimentare, di riprendersi quella forza, quella vitalità appunto del primo rock and roll, ma di spostarlo appunto verso il futuro, verso le macchine, verso il mondo. Potremmo dire che c'è stato sì il punk dei Clash, come c'è stato molto punk rock vicino alla power pop, che invece è stato un recupero quasi pienamente revivalistico della faccenda. Poi c'è chi anche ha fatto dell'arte del revival. Ricordiamo appunto un momento storico, proprio anche per incrociare incredibilmente due percorsi molto differenti, quelli di Elvis Costello e di Alan Vega, che fu colpito pesantemente anche durante un concerto teneva appunto di spalla a Elvis Costello. Quindi anche lì, quasi per una sorta di paradosso, poi si incontrano questi due opposti, perché poi Costello revivalista sì, ma di caratura geniale, in questo senso dal revival ha fatto uscire il pop degli anni Ottanta. E tutto questo calderone, poi, per dire che Alan Vega fondamentalmente negli anni Ottanta appunto è stato riconosciuto forse come la figura che più ha portato avanti il discorso Suicide, anche appunto mutandolo di forma, si potrebbe dire anche per questo aspetto appunto decisamente estroverso e scenico, in questo senso glam di Alan Vega, rispetto invece a un aspetto laboratoriale e potremmo dire anche nerds, se non fosse che Martin Rev era piuttosto riottoso anche, quindi non di certo la pacificazione, insomma, della cameretta del nerds, ma la visione allucinata anche di molte musiche che si possono riscontrare in maniera veramente molto emozionante nel primo disco, un piccolo grande capolavoro, quello di Martin Rev omonimo. Ma tant'è che appunto Vega arriverà negli anni 90 trasformando appunto il cyberpunk e creando appunto una sorta di via personale, lui che l'ha fatto nascere, poi per certi versi, insomma, vivrà il presente, una sorta di presentismo dopo tanto futurismo di Alan Vega nei primi 90, che però accendendosi in maniera straordinaria nella seconda metà degli anni 90, siamo intorno al 95-96, si riaccenderanno di un grande momento eccezionale che poi, insomma, si allungherà anche nel corso appunto degli anni zero, che parzialmente tratteremo velocemente purtroppo, e poi magari riprendendo, insomma, non finisce qua di certo il portato di Alan Vega anche appunto dentro 451 frammenti sonori. Nel 96 esce questa botta incredibile che è Dujang Prang, titolo così vagamente Dada, e di Alan Vega, e riprende appunto tanta anche di riottosità e di visionarietà che lo sposta decisamente verso il futuro, facendolo incontrare da lì a pochissimo, sentirete anche dopo con chi. We'll be right back.

E nel 1995 inizia una collaborazione eccezionale anche per molti versi con Stephen Lironi, che veniva da una new wave piuttosto così non oscurata, ma sicuramente meno anche sul fronte, insomma, del culto, della ricerca, anche veramente anche proprio in termini sonori meno ardita quella del Altered Image, un gruppo che nel primo disco anche riuscì a esprimere, insomma, una pop trasversale anche piuttosto interessante, ma comunque non di grandissima caratura, potremmo dire. E in realtà quello che succede poi con Vega nella metà degli anni 90 è piuttosto eccezionale, perché appunto con Revolutionary Corps of Teenage Jesus sia lui forse riesce a esprimere quella cosa che non era mai riuscita a esprimere dentro altre Image, forse una Vega, questo forse mi sembra ancora più il caso, che ritrova una verve cattiva lo riporta appunto a essere una sorta di saltimbanco della catastrofe, e come appunto da molti anni, non che non lo fosse più, ma di certo, insomma, si era appunto anche un po' acquietato dentro ritmicità che, ripetiamo, lo sto ripetendo dalla scorsa trasmissione, sono state create anche da lui insieme a Martin Rev come Suicide, ma che di fatto poi così lo facevano anche piuttosto acquietare nell'ideazione, ecco, di dischi che poi di opere che invece dalla seconda metà degli anni 90 prenderanno veramente uno spunto malefico incredibile, proprio come è sempre stato il percorso di Vega nei momenti migliori, quindi Dujuang Prang, che abbiamo sentito del 96, e questo Revolutionary Corps of Teenage Jesus, che parte con una cover proprio di questo pezzo di Frankie Teardrop, che lo stiamo sentendo, l'abbiamo sentito nella prima parte dell'omaggio a Vega, chiaramente non potevano mancare perlomeno un pezzo dei Suicide, e riprendono con anche un coraggio che non è mai mancato a Vega, anche nei momenti, insomma, meno ispirati, un pezzo che è diventato, insomma, una sorta di monolite dell'alienazione urbana e del, appunto, portare a una sorta di visione a un eccesso quasi saturo. La copertina, ad esempio, di Revolutionary Corps of Teenage Jesus, è una pistola puntata appunto su chi guarda questa copertina. Anche qua la saturazione è massima, quasi ad aspettare appunto la pallottola che parta da un momento all'altro. Pallottola che in maniera, insomma, musicale è già partita con Dujuang Prang e con appunto la collaborazione con Stephen Lironi per Revolutionary Corps of Teenage Jesus, ha detto bene, e che lo porterà anche al disco del 98/99, Righthouse Light, dove abbiamo preso un pezzo che anch'esso prende tanto spunto da quello che è stato il Suicide, ma con tutta l'acqua che è stata versata anche da loro, anche da appunto Alan Vega e Martin Rev, e anche quella che è passata, quindi anche quella che di fatto non hanno versato loro, sono stati comunque in ogni caso alimentatori poi di quel momento eccezionale che fu una rinascita anche del noise elettronico, sì, di matrice senz'altro cyberpunk, ma che prenderà nello spunto techno uno dei momenti più incredibili, più allucinanti, e uno dei dischi che probabilmente bisogna avere senza proprio nessun dubbio rispetto alla fine degli anni 90, con un grande anche con un grande senso prospettico poi rispetto agli anni zero, beh, è sicuramente questa cosa qua che è veramente pura allucinazione sonica di una violenza quasi aberrante, e soltanto a Lanvega con altri due, tra l'altro finlandesi, quindi più isolati di così. Finlandia poi tra l'altro terra decisamente estrema sia in termini naturali, climatici, e che anche insomma come proprio sopravvivenza a tutti gli effetti, non soltanto al clima ma anche a una situazione sicuramente più povera rispetto ai vicini paesi scandinavi, e anche alla vicinanza della Russia, quindi tutto quello che è comportato in termini appunto storici del Novecento, di paura dell'Unione Sovietica eccetera, con quella vicinanza, lontananza, e anche appunto quel senso poi veramente iperbolico che c'è in quelle terre e che c'è soprattutto in questa musica. Pensatelo unendo ad Alan Vega, Pansonic, che diavolo sia uscito. Se lo conoscete bene, se non lo conoscete, sentitelo e fatelo vostro. Doing it. La techno, la sperimentazione legata al mondo spettrale in tutti i sensi, anche quello dello spettro delle frequenze sonore utilizzate da Pansonic, l'industrial, il noise, tutto insieme dentro poi questa narrazione assolutamente aberrante, come dicevo prima, piena di rabbia, che comunque è talmente fatta esplodere dentro Endless, questo gioiello del 98 di Vainio, Vaisanen, che non sono altro che i Pansonic insieme ad Alan Vega, che diventa una sorta di metafora tutta di un certo modo di intendere, un modo ovviamente che porta verso il sabotaggio, verso l'attacco diretto al corpo musicale, anche a quello che è appunto la macchina in generale, anche in questo senso forse la macchina sociale, quindi non soltanto la macchina utilizzata come appunto linguaggio strettamente musicale, ma che appunto va oltre questo, e frequenze e umori, emotività, appunto riottosità che esce fuori da questi incredibili solchi, se avete la fortuna di avere il vinile, ma lo stesso comunque anche dal CD, probabilmente insomma fatto uscire all'epoca nella prima stampa come compact disc, quindi poi in realtà come Blast First, storica etichetta appunto di materiale decisamente infiammabile, come appunto quello americano stampato dalla Blast First, in questo caso una punta di diamante, appunto di diamante però bruciato per sempre, forse messo a fuoco in una maniera infinita, ecco, nel suo protrarsi appunto con un suo livello immaginativo sonico veramente eccezionale, e non soltanto quello, come appunto vi dicevo, e, beh, con collaborazioni, con il fatto che riesce a ritrovare con Dujuang Prang una sua visione ancora più forte rispetto anche forse a prima, forse ai primi, anche ai primi dischi, i gioielli dei primi anni Ottanta, forse con una capacità anche forse una effettiva consapevolezza poi dell'essere poi una sorta di guru dell'antimusica o della musica portata su un altro livello, che forse è più il caso. E con collaborazioni eccezionali, ne sentiremo anche tra poco un'altra. Riesce poi qualche anno dopo, siamo negli anni zero, a fare un altro piccolo grande gioiello che è Station, veramente pieno anche qua di frequenze, e come se appunto i Panasonic avessero anche informato nuovamente Vega, quasi anche formandolo di nuovo, anche questa grande capacità di essere sempre giovane Vega, eccezionalmente. Ricordiamo che un quarantenne quando esce e quando fa il botto si fa per dire, insomma, del primo dei Suicide, tutte e due piuttosto grandi, sia Vega che Rev, e che appunto nella soglia di 60, oltre i 60 anni, alla soglia ancora dei 70 anni, fa lavori di vitalità che, insomma, molti giovanotti si sognano e vorrebbero avere, questa capacità di rimettersi in discussione, appunto anche di essere proprio formato da questi nuovi terroristi sonori, appunto come furono i grandi Panasonic, e portarono appunto a un album per molti versi vicino appunto alla loro sperimentazione noise, techno noise, quello Station bellissimo appunto di Alan Vega, veramente uno dei punti massimi dell'intero percorso appunto del nostro meraviglioso newyorkese. There the angel came yesterday. Yeah, it's swastikas in its eyes. Swastika eyes. Swastika eyes. And every soldier. All your medals. You just don't know. You don't know. About the ballistic. Swastika eyes. And the angel came. Yesterday, swastika eyes, swastika eyes, and his soul's long gone. Soldier goo, yeah, facing. Facing the lights. Facing the ordeal about to come. Yeah, hide your slaughter. And don't come back. Swastika eyes. Swastika eyes. Don't come back from the dead. They are no friends here. Nothing will survive. That angel came. Yesterday. Yesterday, swastika eyes, swastika eyes. Don't cry, don't cry. It's beyond reach. You know the real thing. the ballistic. The slaughterhouse. The slaughterhouse. For your flesh. Yeah, facing the ordeal. Again! Again! It's the same disease. The human disease. Hide the slaughter! Hide the slaughter! Swastika eyes. Swastika eyes. It's nothing but dead motion. And the slaughter goes on. And the slaughter goes on. A nervous soldier. Yeah, stepping up the storm. Sitting up the storm. Swastika eyes. Swastika eyes. This is the real test. Real test. Swastika eyes. Swastika eyes. Kill. Victory. Victory. Pezzo dei Fuck Bottoms e come dire, Alan Vega diventa una sorta di veramente di figura mitica che viene chiamata da chiunque possa appunto chiamarlo, abbia la caratura forte di chiamare un personaggio che è comunque, come dire, piuttosto ingombrante anche proprio in termini di caratura appunto immaginativa e con tutto quello che comporta soltanto appunto citare Alan Vega in termini di appunto personaggio musicale, di musica che porta dentro di sé, facendo appunto poi oltre di un grande personaggio anche persona eccezionale appunto in termini proprio di rimettersi in discussione. E questo termine appunto infinito, questo sempre continuo rimaneggiare le carte fino appunto veramente a renderle un campo di gioco piuttosto appunto pericoloso, come abbiamo detto varie volte questa sera, e lo porterà appunto anche nel remix di Fuck Bottom, uno dei protagonisti degli anni 10 rispetto alle nuove tecne e techno mischiate appunto con il noise, con tentativi insomma di sporcare ulteriormente già una materia piuttosto sporca come quella appunto della techno. Per concludere questo Smart 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, Sanò, tanto per a dire quanto poi siamo andati lontani appunto con Alan Vega e con appunto il suo incredibile lavoro, il portato eccezionale. C'è pezzo meraviglioso di Suicide qua interpretato da Sanò Pansoni, con di mezzo anche lo zampino di Vega e di Stephen Barrocks. Al prossimo 451 frammenti sonori speciale sul Swans, questa volta non in formato small, ok? Alla prossima, ciao!